Te la chiederò mai. No, aspetta, non hai capito, non gli hai detto niente che mi hai conosciuto? No, non l'ho visto, l'ho visto, guarda, il giorno stesso che tu mi hai detto che lo conoscevi, l'avevo visto la mattina. Se capita già glielo dico, però ti voglio fare una sorpresa. Sì, ma infatti dai, gli facciamo una buffonatura, non gli dire niente. Mi chiami, mi dici, gli dici, ti devo far conoscere una persona. Dicomi che mi dite un pezzo di merda che ha parlato male di te, cazzo, se lo vedi, cazzo, guarda, un uomo infame. No, digli così invece, che c'è una persona che ha voluto un lavoro e non ti ha pagato, digli se ti aiuta di rimanere lì un attimino, che sta arrivando, che ha idea di battagliare, non so. O gli dico che lui gli ha fatto un lavoro, che lui ti ha fatto un lavoro e l'hai bruciato per i soldi, cosa è bruciato, una cosa del genere, oppure che lui si ha preso i soldi e non ti ha fatto niente, dico che ci rimane ancora più male. No, no, digli invece che il problema l'hai avuto tu, se ti aiuta un attimino rimanendo lì, mi fai uno squillo e arrivo. Sì, vabbè, dai, già troveremo il sistema. Vai già. Carità, poi magari chi si abbiglia figo, come ti arriva la grotta con i due cagnotti? Franco, ma tu immaginati che abbiamo dovuto nascondere una volta un pezzo di fotocopiatore, perché ogni giorno in studio era Brea, ma proprio a pugna schiena, ma a crepparsi. A un certo punto scivola un giorno e spacca completamente un pezzo del fotocopiatore appena comprato. Abbiamo dovuto mettere i soldi in tre e di nascosto comprare il pezzo di ricambio. Sì. Eccolo. Ciao Clavi. Il lutto, perché cos'è successo? Peppe Grillo ha superato Berlusconi. Peppe Grillo ha superato Berlusconi. Ui, ui. Ma chi è il primo partito? Il partito è il PD, secondo partito 95 Stelle, forte partito, ma di brutto, dell'8% l'ha superato. Addirittura? La Camera che ha cenato. E poi guarda, sono in lutto. Bisogna fare il corso. La commemorazione dei defunti. Mi ha buttato tanto questo, non c'è un baluda, voi siete convinti, non cambia niente. Ma perché devi pindacciare? No, io non sto pindacciando, sono realista. Bisogna vedere però. Tu stai solo ipotizzando. Ma è la gran tannesimo che ci stiamo facendo governare. Minimo ne sono passate 6 o 7 di come si chiama? Come viene la parola, va a fare la pulizia. Comunque già mi avete capito, ognuno ha la sua scia del mondo, tutti hanno sfasciato tutto. Legislature. Si è studiato, mi ha aiutato me. Ma no, a parte di essere, comunque con Franco andavi d'accordo, noi ci ha fatto i vinti. Oh, ma stai scherzando, ma mai hai avuto problemi con Franco? Ma lo sai i tubetti che gli davo quando stava disegnando? Non si adirava, ma cioè si adirava, te li restituiva. Che poi si muoveva a scatti, cazzo, una marionetta. Yeah. Da dietro mi. Poi uno di quelli che parla col computer, Franco. Se parla col computer. Yeah, tu lo sentivi. Mentre bravissimo in AutoCAD. A un certo punto io lo sentivo dalla stanza di dentro, come stesse parlando al telefono. Invece quando sbiella un attimino perché lavora troppo, lo senti che si mette a parlare col computer. Poi si esce di gambo, la centralina in tilt. No, che avevo solo toccato, lo sapevo. Anche a mio nipote non negava Babidi, l'ho aiutato lui. Vabbè, lui lo fa per lavoro. Ma adesso dov'è? Sempre lì fisso a Ulvia? Sì, sta tentando a qualche avvicinamento, però ci vogliono calci da sedere grossi, perché poi è successo un problemino e lo stanno tenendo. Perché il suo lavoro è bravo, no? Perché è mio cugino, però è apprezzato, è molto, molto, non è di quei classici mandroni. Quando si butta sotto, dice la sua così, l'amico, l'altro, Giuseppe, lo conosci. Giuseppe chi è? Te Clem. Negativo. Magari se lo vedo, lo conosco, però non abbino il nome alla faccia. Amici intimi con Franco, sono tutti e due a Olbia, in due cose diverse, quello è ancora più apprezzato, perché ne ho sentito un assessore parlandone e non stava mettendo su piatto la gente. La pagava. Signori, mi sa che io vi lascio, Sentiamo le prossimine, vado a fare un attimino il carica batteria, anzi alle prossimine, se vi trattenete una mezz'oretta rientro, dai. Io qua chiudo le trasmissioni, anche mi guardo un po' di televisione, sono un po' stanchino, sono andato dal dentista oggi e mi ha tutunato, per cui anche io interrompo e vado a sdraiarmi un pochettino. Vi saluto tutti con amore, se fosse andate a femmina magari, ma invece no, per cui vi saluto con una stretta di mano a tutti quanti. Ciao Antonio Brode, ciao Claudio, ciao Gianni, Doppio Rumbo, Gianluca e chiunque ci sia in ascolto. Ciao, cuore te la parte di. Ciao Robert, buonanotte. Ciao Roberto, faccio una chiamata in frequenza, dopodiché chiudo la trasmissione, ci vediamo dopo già se ci si. Vabbè dai, non c'è problema. Ciao, buona carica anche a te. Chi è rimasto? Hola, hola. Devo provare a vedere se per la cacchinuna. Ho guardato. Ma non provo mai che c'è basso del radio questo, vero? Mio dice che c'è basso del radio. Sto qua, questo che sto usando, dice che c'è basso del radio. Gianpaolo stasera, mi ha detto che era basso. Ma dove, qua in S? Ehi! Ma io adesso lo infatti sento bene. Non so se le condizioni sono le stesse. Le antenne sono diverse, si sa. E comunque l'FM ha ragione, lo sa, io. Lo sai cos'è, signore? Io mi sono fatto il conto. Siccome questi apparecchi qui non sono per la M, lo sai, no, che sono decaviti, li fanno la modifica, magari rubano i watt per darli in AM, li tolgono anche qualche cosa dall'FM. Ma tanto io dico una cosa, in FM non è che li usi moltissimo, non è che li usi tanto, dai, io li uso in AM più che altro. Pure io, però che se vuoi c'è il secondo ritardino di peggio, io, ah, io ho fatto in FM, se andiamo in FM, risolvi il sistema. Adesso tu con cosa sì? Prova a passare in FM, perché non mi ascolti con quello. Ciao, ma lo si passate l'FM? Io? Prova a vedere che con questo ti sento più forte. Io ti sento bene qua con questa radio, tu non so cosa ne ascolti. Benissimo. Anche io ti sento bene, non è basso basso come sembra. Aspetta, fino che attacco anche io, che ce l'ho qua davanti. Ma magari stia avendolo con la stessa radio, succede così. Boh, può essere che è quello. Sei d'accordo qua, davvero, eh? Ma il microfono del buco qui? Qua? È normale. È normale. Boh. L'originale, Giallo, non ho, ti giuro, non sto mettendo altro. Oh, Gianni, aspetta che ti ricevo con l'altro a vedere le penne. Ma vedi, ti sento bene, Giallo. Passaggio? Non è male, no. Non è male, ti sento bene, bene, bene. Credimi. Allora, io ho sempre il CQR. Ecco, non so quanto... come ne ascolti tu. Benissimo, una telefonata. Anche da te, metto lo fuori. È una telefonata, eh. Meglio di come eravamo prima, non c'è corremma né nulla. Cazzo, aspetta che attacco l'altro, vediamo un po', così ricevo col tuo stesso gemello e trasmetto col tuo gemello, dai. Via, via. Hola, pure questa prova, pure questa prova, cambio. Prova a parlare, Gianluca. Ecco, vedi un po', questo è casino. Vediamo un po', questo è staccato. Ok. Vediamo un poco, il TN era mezzo chiuso, non lo so, vedi un poco da me. Per me va bene Gianlu, io non credo niente di chiarissimo, la radio bella pimpante. Oh, allora, boh, non lo so quella volta lì, cosa cavolo stava facendo. Boh, aspetta che chiudo anche questo cavolo dietro, che non mi interessa. Ma è bello che sentivate anche a me più basso, te lo ricordo. Eia. Poi adesso come mi ascolti? Sto forte. Boh, forse era qualcosa nell'aria, che cosa ne so. Guarda, io adesso ho il volume visto la metà, un'attacca dopo dalla metà. E passa la M. Ho la 1-3 prova, ci sei? Sì, è già. Sì, dai. Ok, passa in AM. Sei in AM, sì? Sì, sono in AM. Perfetto. Ti ascolto bene. Allora, ho spostato Vaffa a Napoli. Scusa un attimino, Gianni, un secondino. Di diavolo è longa. Hola, 1-3 prova, 1-3 prova. Ok, Gianni, non so se vuoi fare qualche prova in banda. Se in questo qui mi sembra di non averlo provato qua in casa, ecco. Aspetta un attimo, dimmi una cosa, se vada di più forte così? Sì, senza un doppio. Vaga. Sì, perché la bassa la radio, capito? Sta fischiando, però secondo com'è fischia, capito? Troppo forte, cazzo. Non comprendo una cosa, non so che è cadrato. Così va bene. Proviamo in banda? In banda? Proviamo. Vai. Fai il USB, Unifor Santiago Bravo. Fai un passaggio. Perfetto, dai, ok, dai. Ti ascolto bene, non so tu come mi ascolti. 1-2-3 prova, vediamo un poco. Unico Santiago Bravo, unico Santiago Bravo al 100%, mi sto ascoltando al 100, al 100 al 100%, al 100 al 100%, ok, dovrei essere inquadrato, avanti Gianni. Vai, ti ascolto benissimo. Anche io. Prova. Vai in Lima Santiago Bravo, dai, così abbiamo finito queste prove. Ok, dai. Ci sono, perfetto. Il mugnagna questo qua. Va bene. Adesso ho attaccato questo un attimino. Va bene, sempre a posto. Questo fuoco che ci mette ci sta bene, molto bene. Caspita, però dovrebbe trovare il modo per aumentare la radio senza che fischi, forse perché eravamo troppo vicini, Vedi, guarda come fischia da vicino. Se non sei troppo fischia, però se non ti avvicini troppo, va bene, dai, non ti devi avvicinare per non fischiare. Ho capito. Si sente un bel quadrato, vero? È abbastanza, ma e gli altri corrispondenti? Ma sono disperati perché sta perdendo Berlusconi. Sviluppo che ne muore, sviluppo che sei lui. Ma hai compreso che Claudio non è inteso poco fa che hai detto che era il lutto. Anche siamo con le trombe. Davvero? Io lo faccio da casa. Dai. Speriamo che possa andare come si deve, ragazzi, a via. Sì, ma. L'unico è cambiare adesso, troppi ne abbiamo provato le stesse volte. L'unico è cambiare nuovo e vedere che come si commenta, che tu dici non fa nulla, se non provi non sai, puoi saperlo, è come ti rasini, no? Se non assaggi non sai se è buono. Vabbè, già lo guidate sul fisso. Dipende l'importanza del suo godo, del suo MC, dipende l'importanza, tutta diversa dall'altro. Perché la portante dello spinotto sta cambiando? Comunque un raccordo che si attacca direttamente da Darigo senza le punta di tubo originale, ho preso qua da Talle Longa. Ma può provare anche l'apparato? Questa no, per. Beh, buonissimo, le messi senza fare l'essere. Io le ho provate a mettere amplificato, però fisco. mettere al minimo il macchinino, non so, mille cose bisogna cambiare, togliere l'ecco. Ma infatti io uso Google nel mio microfono che non è amplificato, ma questo motivo a chi è che è amplificato da Trento, ho preso. Infatti. Ma non esce di voce, capito? Non esce la modulazione. Stavo spiegando a Gianluca che l'alimentazione solitamente nei mesi 60 dal chirurgo la prende dall'interno, invece questo apparecchio qua bisognerà aggiungere le batterie per alimentarlo. Si conferma Gianni Doppio, non uscirà mai, dirà solo il PTT, metti le due batterie e vedi che funziona Gianluca. Adesso provo, da un secondino, parlate. E quel cazzo di sotto non c'entra nulla, vero? Là. Quel cazzo di sotto deve mettere sempre in amplificazione, non in out, in. Cioè out, in, out. No, provo un attimo. Ce l'avevo io con il presidente Lincoln. Andava forte, va forte. Che fine ha fatto? Venuto te la, che è quel. Sì, c'è. Sandro ce l'ha. Senatori ti fanno appetti, ce ne voglio almeno 170 per avere la maggioranza. su Mediaset Premium, che danno tutte, che siano di destra o siano di sinistra, boom e tsunami di Grillo, l'Italia è ingovernabile, allucinante. Ehi, vabbè, ancora non sono definitivi, dai, si saprà qualcosa di definitivo a domani pomeriggio. Già, ho intervistato il nostro Grillo per la Secretario, ha detto, si togliono tutti dalla testa, che solo col mio 38% non faccio ciucci, in ciucci e accordi con nessuno, vado a governare da solo e le faccio un culo così alto. Bello. Sì, perché tanto è troppo comodo associarsi a chi vince. Lui ha già dichiarato in tutte le testate giornalistiche, anche su addirittura, come si chiama quello, TGCOM, ha detto a livello nazionale che lui non fa i ciucci con nessuno, che nessuno mi proponga niente come parla lui, perché io non devo fare i ciucci con nessuno. Non devo assolutamente avere nessuno che mi dica quello che devo fare. So io quello che devo fare. Chiaro, immagino già di due. Povero Italia. Ah, mamma mia. Ma dimmi una cosa, Claudio, lui è da solo, non è alleato con nessuno. Il Movimento 5 Stelle è un movimento creato da lui, da solo, non ha nessuno, sono praticamente quelli che lui porterà alla Camera dei Deputati, saranno persone normali come noi. Certo, gente preparata, pronta, c'è addirittura, ne hanno intervistato una, questa Maria Mazza, mi pare, una cosa del genere, un cognome del genere, che ha lavorato in giurisprudenza e dalla capolista sia al Senato. Ed è già dentro, perché Grillo al Senato è il primo partito. Alla Camera questo 25% che monti al 10%, siamo attenti, arriva anche lui perché ha superato il 10% sia alla Camera che al Senato, però. Non sto cazzando, quindi entra anche alla Camera a Monti. Quindi darà filo da torcere, eh? Vediamo, sicuramente. Ciao, ciao. Oh, Claudio, adesso io sto riprovando il microfono, no? Questo qua. E gli ho lasciato le batterie, ma cosa le fa? Le lecca, no? No, Tullio, sopravvivente il circuito di amplificazione. C'è già un autovolso il circuito, deve andare autovolso. Se tu lo sopravvivente lo bruci, Tullio. Aspetta, Gianluca, no. Il tuo la versione precedente. Pensa che sia precedente al quale uno c'ha sui morsi, l'altro c'ha autovolso. Come il, se mi ricordo, se 430 con 440 non c'è 6, non c'è 8, però non conviene lasciare le batterie, se non come hai fatto tu, come avevo fatto io col presidente Lincoln, che alimentavo l'MC80, però c'è proprio la batteria, allora è diverso, ho capito, perché il circuito di alimentazione è alimentato solo da quella alimentazione lì. Con le due stilo 1,5 poi 1,5, quindi io le lascio sempre dentro perché mi ha detto che l'ultima versione non mi fa niente. No, non so, gli agenti sono l'alimentazione, il centrale che voi volete, quelli che sono 8 punte. Il centrale dell'alimentazione, quindi alimenta già il circuito di amplificazione microfonico. Se tu vai a lasciare le batterie dentro, succede che lo stai sovralimentando e molto probabilmente quel trattare perché tu stai usando simile all'MC60 con una HF. A meno che uno vada a escludere l'altro, avevo chiesto io, ho capito, perché io mi ricordo quando mi è arrivato questo, mi è arrivato già con le batterie all'interno. E infatti io stavo provando, l'ho fatto per mettere le batterie, perché lo stavo provando, adesso non mi ricordo su quale volevo fare l'abbinamento. E allora avevo chiamato giusto per chiedere un attimino di queste batterie se il Michael 60 si prende l'alimentazione dall'apparato. Ma ha detto no, è l'ultima versione, io sulla scheda ha un circuito apposito, diciamo, per evitare questa sovralimentazione. Subito la domanda che ha fatto Gianni, giustamente, se tu adesso sono il microfono, perché non lo esclude, ma in contemporanea, se tu sono il microfono e chiudi la preamplificazione, il microfono non è più preamplificato, quindi quelle batterie come che non ci siano. Allora, non ci sono, perché a quanto mi hanno spiegato, sulla scheda del mic le batterie da 1,5 non vanno a far conflitto con l'alimentazione che si prende direttamente dall'apparato. Non so, se tu apri il circuito di preamplificazione non è separato, perlomeno quello che ho io, io ne ho 3 nel 60 e sono tutte e 3 di ultima generazione e sono completamente collegato al circuito, quindi non so poi dove vada ad escludersi, non lo so, non voglio insistere, ma io uso l'MC60 dal 1986 e ti posso garantire che l'ho usato sempre senza batterie, perché mi hanno detto così, e ho detto che ho sempre avuto Kenwood, ma anche con lo Yoesu, cioè l'SM20 ha lo stesso sistema, se tu apri c'è la serie batterie, è uguale, non cambia niente, non cambia come l'MC80, come l'MC85 e così via, hanno tutti la serie delle batterie per far sì che i microfoni vengano usati con una radio che non viene alimentata, che praticamente non ha l'alimentazione diretta. Questo è quanto, lui sa, non voglio insistere, non ho detto contro a chi ti ha detto queste cose, per carità, però io non mi metto perché può fare danno, non lo so, ok. Gianni, riprendi. Infatti l'unico modo che potrebbe essere che vada in esclusione uno dall'altro, che se si sovrappongono l'uno all'altro è normale che vada sovralimentazione, questo però non lo so come funzioni il circuito, anche perché io il MC60 uno solo ne ho avuto e non posso dire la mia, anche perché non lo so. Ce l'ho io il tuo MC60 del corpo. Allora ti spiego, all'interno, oltre diciamo la sua scheda diciamo del circuito dell'alimentazione dell'apparato, sull'apposito in plastica dove vanno diciamo due batterie da 1,5 e un'altra apposita scheda, ok? Un'altra apposita scheda che poi logicamente andrà a lavorare. E infatti su internet ho proprio guardato il precedente diciamo versione diciamo del 60, non ha questa scheda sul vano diciamo batterie. Tu che cosa c'hai là? Io ne ho due di... Allora c'ho il Kenwood Trio MC60, che è la prima serie, ok? Poi c'è l'MC60 normale e l'MC60A, tutte e tre già dalla prima serie, non hanno nessun altro circuito di alimentazione. Guarda, io ce l'ho aperto e qua non vedo assolutamente niente. L'MC60A, che è quello che io ho preso da Gianni Doppio Room quando aveva preso il 140, giusto Gianni? Il tuo era l'MC60A. E che è questo che sto usando? Io l'ho aperto, usando il giratto e non volo nessuna batteria, non ce n'è, però non volo nessun'altra scheda, so. Ecco, allora questo che ho io è l'ultima versione all'interno sulla scheda madre dopo c'è sul vano diciamo batterie in plastica una scheda apposita separata che il vecchio modello il precedente a questo non lo so il mio non ce l'ha ed è praticamente l'ultimo che hanno fatto dell'MC60 non lo so. Vabbè, comunque io logicamente ho chiesto spiegazioni perché io mi ricordo precedentemente a questo che avevo diciamo il 60 e non lo so cosa era successo, avevo eliminato le batterie e quindi su questo ce li ho sempre le batterie inserite e mi è stato confermato di lasciarle che non succede niente. Giustamente come ti hanno detto, io ripeto, dall'86 chiuso il 60, no, non ero mai messo, una volta solo ho usato il 60 con, se mi ricordo, con Cavallo che non aveva ancora 830, è sempre della Kenwood di vecchia stazza, quindi non moderno al 100%, non aveva l'alimentazione e quindi ho usato le batterie e poi quando avevo venduto l'830 che era prima dell'850 e l'ho tolto e l'ho fatto normale praticamente e in tutti e tre gli MC60 io non uso batterie, ma neanche nell'80, nell'85, nell'80 lo usavo con 300 e poi li ho ritolto e l'ho messo dentro la scatola. Avanti Gianluca, cosa è che volevi sapere? Cambio. Ma va a finire in nera. No, ma ti viene in nera. Va Bravo, dai ragazzi, vi saluto, buona serata. Ciao, ciao. Auguri. Grazie. Ciao, ci rimanti, niente, dai. Salutano San Francesco. Avanti, chiede chi c'è. Cambio. Ehi, va. Ciao, la Serena. Senti, alle prossime. Ce l'hai fatta o non ce l'hai fatta? Oh, signor Gianluca. Ciao, signora, alla prossima. Andiamo, ma se non vuoi rimanere. Ma sto scemo, ma perché sto scemo male? Beh, non ci sento, non ti ascolto bene. Beh, ma non so. Io, e sei il primo che me lo dice che sto scemo male. Ma magari è il caso, meglio di uscire. Lo sento, è troppo forte, ma da tanto sei già. No, no. E se mi hai spogato bene, qua se vuoi trovare come arriva del troppo. Brr. Ma perfetto, Lu, guarda, non c'è il cane che è spostato, qualcosa spostato. Ok, c'è un problema, io vado già a decimare, ve lo dico, è perfettissimo. Lo fai? Boh, non lo so, guarda, vedere, guarda, vedere. Un c'è dove fa lo fai. Boh. Però ho continuato, no, chiara e chiara, poi ci avevo fatto troppa ripetizione. Sarà l'effetto del raffreddore, dai, va bene, va bene. Gianluca, volevo sollevare il microfono, sa? Ho sollevato il microfono? No, è sempre la fermo, quasi tra lo zero e l'uno. Sento sempre cacchiare io quel cacchio di microfono, o il microfono alla radio, lo già ne so qui. Io ti sento sempre trappare, sempre trappare. Ti ho sentito bene l'altro giorno e poi continua quando lo vai l'acuto a strappare. Anche la peggia. Non vorrei che sia io. No, ma è anche qua così. Tende sempre a avere questi strappi. Come lo abbassa va bene. Aspetta, cosa vuoi che ti dica a me? Sto quasi a zero, è quasi a zero. Se non è perché sta riscaldando, boh. Adesso la cena sta andando bene, sa. Quasi a zero, Riesci a vedere? È proprio dallo zero, e cosa ti posso dire? O bellissimo. Sarà il mio tono di voce, magari delle volte la voce è più bassa, delle volte o delle volte non la sento bene. E alzo magari il tono di voce, non lo so. Vibrante. Lo Smith che sta andando oltre tra il 100 e il 150, metà. Sa, con quel microfono lì tante volte, anche perché ti avvicini, bisogna tenere una certa distanza, perché se sei troppo vicino te ne strappare, anche quello è. Lo so per esperienza, perché all'inizio che a me fregava, con quei microfoni lì bisogna stare molto lontani. A differenza di tanti altri microfoni, per dire l'altro che c'ho, che c'aveva il Prox, quello lì, se tu non ti avvicini, anche se è amplificato, non funge. Quando ti avvicini va benissimo. Quelli invece bisogna parlarci un po' lontano. Prova magari a allontanarti anche un po'. Sì, sì, beh, quello l'ho notato, che se delle volte magari mi avvicino più del dovuto, me ne accorgo, diciamo, dal lago che sparruota, diciamo, di più. Invece si usa, ma la distanza, diciamo, più o meno sono sempre quei, ce l'ho circa 40-50 centimetri, diciamo, da dove ce l'ho io, capito? Però delle volte magari ti muovi, o magari adesso mi sto avvicinando, vedi? Si sentiva. Chi lo sa, anche a regolazione forse della radio, tante volte troppi fatti, o pochi o troppi, tante volte anche quello conta. Ci sono mille fattori che magari potrebbero essere. Boh, sempre di non abbassare i voci. Allora io trasmetto a 20 cm parlando sempre piano. Mi posso avvicinare, guarda. Adesso sono attaccato al microfono, guarda. Attaccato al microfono. A me cosa cambia? No, non cambia nulla. No, quando ti avvicini, la modulazione rimane più acuta, diciamo, più forte. No, come volte sono 20. Sono 20, poi i picchi di modulazione vanno oltre 100. Beh, provo a passare. Dobbiamo aumentare. Ok, 10 watt. 10 watt, picchi di modulazione 100. Ti do un consiglio come andata Massimiliano. Allora io intanto la tengo sempre a 50 watt di portante, 100 modulati, più o meno siamo sempre lì, ho 40 di portante, 80 modulati, 70 modulati, adesso io sono a 40, 80 modulati, se fischio 130. E con questa qua me l'ho rifatta come la prima, se ti ricordi, la prima che è andata poi a casino. Questa c'ha nuovamente portata fino alla MOSFET, quindi posso portare la portante anche a 100 watt. Allora questi sono 50, e questi sono 100 watt di portante, 150 modulati, e non va in saturazione perché c'è la storia finale a MOSFET, ok? Lo rimetto come era, ecco qua. Allora, primo consiglio, non stare sotto i 20 watt con quella radio, perché essendo tre conversioni, cosa succede? Che la prima spinta gli va dalla potenza. La potenza eccita il microprocessore dello stereo finale dell'LC, e tu più basso lo tieni e più lui va in distorsione. Se lo tieni allegro invece, se lo tieni allegro sui 50 watt di portante, questo non succede. Vuoi vedere? Prova. Non lo so. Allora, 20 di portante, 30 di portante, 40 di portante, 50 di portante, picchi quasi 150. Già mi gradiamo per la modulazione. Prova bene, avanti. Ok, vediamo un attimino. Ok, prova un attimino, prova. Così è chiarissimo. È il segreto della categoria che vogliamo, capito? Ma io dico per esperienza, non è che nascondo niente. Però tutti i Kenwood, soprattutto il 140, il 70, il 440, il 430, devono lavorare in AM, con una potenza minima almeno di 40 watt, per far sì che l'LC non vada in protezione. Se tu scendi sotto i 20 watt, lo tieni a 20 watt, l'LC va in protezione quasi, e tende a graffiare la modulazione perché non c'è spinta. Il microprocessore che eccita l'LC sul Mickey Gain della radio, e quindi automaticamente eccita allo stesso tempo la preamplificazione dell'MC60. Se tu hai una potenza bassa, gracchia, non spinge, capito? Non spinge. Io esco sempre così, non sotto i 40 watt, perché altrimenti non c'ho la spinta per poter far lavorare l'MC60. Non lo so. Ok, dimmi una cosa invece, non lo so se coso, perché questo è un accorgimento che le ha fatto, sull'ultimo numero decimale, allora per dire 27.105.00, sugli ultimi due decimali, sotto lo zero, l'ultimo zero, c'è un pallino, ok? Quando sei in modulazione, a te quello lì ti si accende? No, assolutamente, se devo tenere un pallino devi andare su quale rotogli, io non c'ho nessun pallino, io ho memorizzato 100 canali perché questo ormai per me è per la 27, questo è il mio baracchino a sintonia continua, ho memorizzato 100 canali, dal canale 1 al canale 100, ok, dove chiaramente io ci ho inserito anche la 28 perché la uso, e ho messo tutte 100 memorie. Senza mettere puntini, io vedo alcune radio che mi hanno portate qua per sollevare le LC eccetera, e soprattutto di 140, qualche 440 ho visto anche memorizzato, che le mettete puntini, i puntini, non se ne mettono puntini, e devo fare solo in automatico 27.105.00, sì, ma va in automatico, qualcuno mette il puntino, canale 12 puntino, poi 27 puntino, a voi aggiungete un puntino muro in mezzo tra il 105, non il 10 puntino 5 puntino 00 puntino, cazzo non lo mettete perché poi diventa, va praticamente si sovrappone la lettura digitale del display con tutti questi puntini, succede un casino. Io non sono andato a mettere nessun puntino, ok? Io adesso sono sulla frequenza che ho memorizzato, ok? Logicamente per natura non è che io sono andato a mettere i puntini, memorizzando su 7 ti esce il puntino, cioè acceso, poi 105 su 5 c'è il puntino acceso. Sull'ultimo zero, il decimale, quando adesso ti spiego perché, sull'ultimo zero decimale, proprio alla base dello zero, c'è un puntino che quando io per dire, adesso me ne sono accorto che è rimasto diciamo tipo un led, quando io passo di watt, poco fa per dire era 10 watt, 20 watt, durante la modulazione questo puntino era leggermente debole. Adesso che ho aumentato la potenza, che sono dove sono, il puntino è più visibile, capito? Più luminoso, hai capito? Cioè questo è stato fatto quando è stato cambiato l'oscillatore, che poi il marito dice non faccio caso, piccolo accorgimento. Se lo dice lui, che è un piccolo accorgimento, io non ci metto lingua. Il display del 440, del 430, del 680, del 140 non hanno puntino sull'ultimo decimale. Nessuna radio ha puntino sull'ultimo decimale, perché essendo l'ultimo decimale punto 00 è automaticamente sottinteso che il display ti va l'ultimo decimale 00 per far sì che tu metti in funzione, ecco qua, metti in funzione il RIT sia in trasmissione sia in ricezione, che si è spostato a 104.94, ok, adesso di nuovo a 105, per far sì che il decimale, ultimo decimale 00 dia il consenso al RIT sia in ricezione, quindi RIT o XT, a uno e all'altro, per poter andare poi con RIT a spostarti su .00.04 e così via. Quindi se per lui è un piccolo accorgimento, per me è un difetto, perdona. Comunque logicamente questo avviene in trasmissione, intendiamoci, perché in lui in standby, diciamo in ricezione, diciamo normale, non si vede niente, si vede soltanto questo piccolo accorgimento che in modulazione collaborazione, adesso per dire, prendi caso il l'amplificatore B131, ok? Quando fai modulazione il B131 che c'ha la sua lampadina che diventa più fosforescente, tramite quando stai modulando che diventa più fosforescente, un po' cosa c'è? No, non è niente di preoccupante. Quello è un'altra cosa. Perché non solo tu parli del B131, ma io ti parlo di un amplificatore professionale come quello che ho io, della Kenwood, del 911, che è prima del TL922. Quando va in trasmissione, le luci dei due strumenti di accordo e di placca, ma attenzione che quello che ho io c'ha il pad d'uscita e poi c'ha l'accordatore di placca sullo strumento, quindi vaffanculo, te lo volevo dire in fretta, ma praticamente ti segna quanto l'assorbimento della valvole, ok? E quindi quando tu stai trasmettendo, i due strumenti vanno a illuminarsi di più, ma non è un difetto, quello è un pregio, capito? Perché se uno strumento si illumina e l'altro non si illumina, vuol dire che c'è un disaccordo, devono andare tutti e due in contemporanea e praticamente aumentare la tensione della luce. Questi tutti gli amplificatori lo fanno, chi piccolo o chi grande, quindi non è un difetto. La cosa che non capisco è perché io parlo di me, Sandro, attenzione, non ti offendere, non sto offendendo la tua radio, per carità, me ne guarderei bene, però io, per la mia esperienza fatta, e cavolo, adesso se non ci sia nessuno che mi possa dimostrare il contrario a me, sulle apparecchiature Kenwood, io non ho mai visto un Kenwood che sull'ultimo decimale aumenti o diminuisca l'ultimo decimale, quindi che lampeggi, assolutamente, nel modo più assoluto. Non sono d'accordo che per lui sia un accorgimento, per carità. Lui è tecnico, io no, però io per la mia esperienza vissuta su tutte le radio Kenwood che ho avuto, e ti giuro che ne ho avuto tante, ma analogiche non so neanche quanto ne ho avuto, ma di qualsiasi tipo, dall'810, dall'820, all'830, all'840, all'850, perché quelle le hanno fatte tutte, della serie 8, della serie 9, dal 920 al 930, al 940, al 950, ok? Della serie 1, dal 120, il 130, il 140, e poi hanno fatto il 680. Quindi le ho avute tutte, dimostrabili alla mano con tanto di fotografie fatte, perché ce le ho tutte. Quindi non ho mai visto l'ultimo decimale della scala Kenwood a display che vada ad illuminarsi. Poi non lo so che cosa abbia fatto lui, attenzione. Questo io rispetto tutto ciò che si dice, ma vorrei capire che cosa ha fatto. Allora, ti ripeto, non è l'ultimo decimale, sono zero, gli ultimi due sono gli zeri, sarebbero decimali. Non è attuoso, vuol dire puntino, è un puntino che in stampale rimane normale acceso, poi durante la modulazione c'è questo piccolo accorgimento, tutto lì, vabbè, comunque non prolunghiamo più il puntino. Va bene così, a quanto pare è salito Monti, scusate un attimino. Monti già è già salito, se è salito la camera siamo fregati, rimane tutto come prima. Auguriamoci di no, ma come si fa a votare una persona così, ci avrà i suoi percettivi appresso? Il Senato so che è salito, ma non ha la maggioranza, c'era il PDL la maggioranza. Se è riuscito a salire alla Camera siamo fregati, possiamo comprarci le pistole e ammazzarci tutti. Mamma mia, quello pensa solo alle banche, il suo mestiere è a fare il bancario, quindi pensa sempre che non vada nel fallimento le banche. Ma già ci vado io a Roma al Viminale, lo sparo subito io a lui, questo di merda che non è altro. Gianluci, sì. importante. La vado a cercare sui fili e non ce n'è. Ma è possibile. È possibile, ma... Cazzo, ma sei sfigato tu con i microfoni, eh? Ah, guarda che lo stavo provando con i puntali, mi puntavi bene, appoggiati, facevo la portante, ho fatto tutte le combinazioni, mi rimo immaginate, eh? Non ho capito perché. Comunque sia, le cose, come si chiama, le MC-70, lì. Ho trovato la portante e non sono riuscito a trovare la modulazione. Adesso stavo provando quelle medie 200, a trova la portante e non trova la portante. L'MD 200 guarda che c'è un filo in più, eh. Sì, ma io lo sto facendo dal... Ah, che tu dici che sono tre, eh? Sì, la Yoris 3 ne ha dei fili, il Chievo ne ha due. Che cavolo, ma io quello non lo posso levare, sa, perché nel basamento si attacca con quella specie di spinotto tipo quelli del telefono. Dillo a me, io ne ho due così, da Valone, se mi sono dovuto far mandare i cavi già, infatti capite, c'era un casino, perché se elimini quel filo o non ti funziona il bagnato o non ti funziona il lock, quindi se mi decidere tu cosa vuoi eliminare. No, non lo tocco, no. Ha detto se la ciappo così, cosa succede? Non succede nulla, perché non è amplificato, diciamo, la batteria, così che trasforma da un po' come... Ma io vado lo schema di soccorso. Ma la domanda era fai dello schema? Ah, dimmi una cosa, Gianlu, ma tu stai parlando di quadrinetto, baionetta? Sì, sì, quelli... Non senza smontare niente, capito? Le sto facendo uno spezzoncino. No. Poi, cosa hai, Daghi? Sono il 908, ne sai qualcosa? Vedi, ci sono i cavi appositi lì, è un casino, eh? Massimiliano Archimede, perché non c'avevo il connettore quando avevi a Savoia, e Icom Kenwood è quello che uso sempre per fare prove ai microfoni. Però non mi devi toccare i microfoni, aprirli, fare, no. Preferisco pasticciare con i connettori, capito? Ma non li tocco mai così. Io ho le MC85, guarda, che c'ha tre uscite microfoniche, tre. Ce ne sono due attaccate originali. Il terzo infatti Fabrizio mi ha detto, te lo faccio, no, già me lo ordino, Kenwood, in modo che sia originale, perfetto, perché con le MC85 io uso due radio della Kenwood, il 780 e il 430 in modo laterale, con lo stesso microfono, commutano, c'ha uno, due e tre, capito? Ho detto o su uno o su due, quando mi serve una radio sempre con lo stesso microfono, e devo cercare di fare tutti così, tutti, anche la bonus che ho con due uscite, perché così inizio a eliminare il microfono, anche no, non mi comprendo più un accidenti. Ma ora che tu sappia, a quella specie di commutatore ha detto vai tre radio simili, no? Povero fatto, quindi 740, 440 e 680, no? Correggimi, hanno la stessa connettore, il microfono lo puoi abbinare tutte e tre ugualmente, non è un C60? Tre uscite uguali c'hanno, tre uscite uguali, ti do di più, stai attento. Se tu prendi un MC85 nuovo e te lo fai mandare con i tre connettori d'uscita, a tre uscite commutabili col commutatore, cioè puoi cambiare. Uso il 140, uscita numero 1, e schiaccio il pulsante, ok? Il microfono trasmette solo col 140, poi ho a fianco il 440, uscita numero 2, sempre lo stesso microfono, sto usando un'altra radio, uscita numero 3 e via. Questo per quanto riguarda la Kenwood, stavo attento, perché l'ho fatto anch'io qualche anno fa, sempre con il MC80, anzi, bugia mia, era con l'SM8 della Icom, ok? L'SM10 ancora non era uscito, l'SM8, che ci avevano stesso tre uscite. Allora, siccome io però ci avevo il microfono della Icom, il microfono della Icom, con tre uscite, che sono tutte e tre a 8 poli, cosa ho fatto? Avevo l'Icom che era mi pare nominalmente, vabbè, un Icom, qualche non faccio, non mi ricordo che Icom era, forse era 751, non mi ricordo, vabbè. Uscita numero 1 dall'SM8, uscita numero 1 Icom, che il connettore è giusto. Uscita numero 2 avevo Coriolisio, allora cosa ho fatto? Dall'uscita numero 2 segnata con il cartellino, con il cavettino eccetera, io esu, ho invertito le polarità e quindi sono andato a far uscire connettore di esu. Nell'uscita numero 3, che avevo un altro Kenwood, che però l'uscita era Icom, ho fatto nuovamente la stessa inversione, quindi facevo col microfono della Icom, facevo un'uscita Kenwood, un'uscita Yaesu, un'uscita Icom. La stessa cosa puoi fare con MC85, che ti costa anche di meno, perché l'SM10, adesso non è fatto, l'SM8 non c'è più, puoi fare la stessa cosa, a tuo piacere. Hai tre uscite Kenwood, se hai tre radio Kenwood le lasci tutte e tre così come sono, se hai due radio Kenwood e una Yaesu, fai a tuo piacimento come tu. Ma dico, è fatto artigianalmente, così è, cioè per capirci, è un filo che dopo si divide a tre altri fili con altri tre spinotti diversi che può attaccare un spinotto e adatto per una radio? No, tre cavetti di uscita come tu hai l'MC60 spiralato, questi sono tre cavetti di uscita che non sono spiralati, lunghi quanto ti servono e te li mandano assieme quando compri il microfono. Tu dici, vuoi un MC85, lo vuole tutte e tre con uscita, vuole tutte e tre i suoi cavetti, sì, che uscita vuole, tutte e tre Kenwood, no, me ne fai uno, il numero uno me lo fai Kenwood, il numero due me lo fai Yaesu, il numero tre me lo fai Icom, punto. Angelo, il bello di quella dell'85 è proprio questo, che c'era tre uscite e che puoi utilizzare sempre in radio, capito? Anche di masse, è il bello di quel microfono lì. Sì, ma in quel intendo, se vi sono comprendendo gli orecchi, se vi sono quello che ci sta, no? Da dietro c'è la ghiera, sta anche con lo spinotto, io per esempio stavo facendo uno per abbinarlo, per dire sì, non la trovo il malacchino. Ecco, io voglio capire questo, se da dietro il baracchino questi spinotti sono singolarmente separati, quindi voglio dire che per attaccarlo quel microfono lì, nel metodo facivo in questo caso, a un cavuto, a un suo spinotto, quindi però se devo usare lo IAESU svitto e metto quello della IAESU, oppure escono tre cavi da dentro allo microfono, tutte e tre a pinzulone, bandite. Precisato il discorso della baionetta che stavi provando e così via. Allora, l'85 è tipo come il V908 e c'ha tre ingressi, ok, tre uscite, chiamiamole tre uscite, a baionetta con lo classico innesto tipo telefono e così via. Poi da lì partono con queste tre uscite che tu puoi abbinare a tre radio diverse, logicamente con le sue connessioni adeguate. E quindi sono tre capricci attaccati al microfono che escono, così è? Esatto. Ecco, questo volevo dire io. Questo capricci qui da uno diventa tre. In ogni tre parti c'è uno spinotto che giustamente con le connessioni adeguate per la radio che deve essere attaccato. Ho capito, ma mi pare sia fatto una cosa artigianalmente, cioè anche quando tu lo compri, te l'ho comprato con le chiamate a Biancone, va a dire, Biancone fammi dico, che tu te lo fai tirare un cavo, gli spinotti te lo sai che te lo fai con tutte le connessioni, non mi pare, non ci capisco io, appunto lo spinotto ho fatto triplo così. Yeah. contatto, ok? Solo il microfono, l'uscita del microfono è così. Allora, il 908, l'Adonis, l'Oxin, quella serie lì, va bene, hanno i connettori come tu hai nell'MD200. Il 85, l'MC85 della Kenwood ha tre uscite di cavi, mi stai seguendo, originale, 3, 1, 2, 3, tre cavi originali che escono direttamente da dentro il microfono, e sono collegati a un commutatore a 3, 1, 2, 3. Quindi il cavo 1 è collegato al commutatore numero 1, il cavo numero 2 è collegato al 2 e il 3 è collegato al 3. Escono direttamente da dentro la radio, non hanno nessuna ghiera, nessuna nuda, e hanno il suo connettore a 8 già pronto, che tu puoi usare 3 radio Kenwood, oppure come ti ho detto, 2 Kenwood, 1 Yaesu, ti fa la connessione tutta, la inverti tu, oppure tutto a 3 puoi fare il gatto che ti pare che piace. Ho capito, da con voi da dietro la cassata, per intenderci, da dietro la cassa del microfono escono i spinotti già installati là dentro, che non si staccano, così è. Esatto, esatto, all'interno c'hanno, non sono delle spinette crepitate, sono, per farti capire, delle mini spinette con tanti puntali come quelli del computer, dove c'è la scheda col commutatore che esce sopra, come ti ha detto Sandro, davanti alla console del microfono, e c'è 1, 2 e 3. Ogni spinetta collegata ad un tasto e ti esce direttamente il cavo da dentro il microfono, non c'è nessun connettore dietro il microfono. Tu vedi che un cavo normale, un microfono qualsiasi, ok? Un microfono qualsiasi di un baracchino, esce un cavo, lì ne vedi tre che escono e sono tutti e tre collegati al commutatore della console. Mi sono spiegato? Sì, sì, adesso è chiaro, ho capito adesso, sì. Ecco, ho capito. E queste cose qui tu le richiedi al momento dell'acquisto se compri nuovo, così, oppure per dire l'hai già acquistato da un altro che aveva solo, non aveva queste correttori, comunque tu le richiedi in base al modello del microfono, alla radio che lo vuoi installare. C'è anche chi ti chiede, devi usare tutte e tre i cavetti su radio Kenwood, e tu dici sì. Se non vuoi che ti cagli niente nessuno, altrimenti se no guardi, ho due radio Kenwood e una Yaesu, e allora ti dici, il terzo connettore della console me lo può far uscire per cortesia col connettore Yaesu, e lui te lo fa Yaesu. Io non l'ho mai chiesto, non l'ho sempre fatto io, perché è meglio che lo vedi, lo provi, eccetera eccetera, perché tante volte te lo sbagliano. Capito, te lo sbaglio, però il microfono è eccezionale, non fa altro, l'MC85 oggi in commercio me lo trovi meno di 200 euro, meno di 200 euro, è intorno ai 190, 198, 195, costa molto più dell'MC60 perché ha questa opportunità di avere tre uscite Kenwood e usarle con tre radio Kenwood, capito? Facciamo girare il doppio room. Doppio room, ho reso l'idea, cioè aspetta, ne sappiamo troppo. Tanto abbiamo fatto dormire a Gianni. Gianni si è girato dall'altra parte, dai. Vabbè. Comunque, sì, vabbè, il bello diciamo dell'85 è questo, poi se uno diciamo lo utilizza va bene, ma poi se non lo utilizza diciamo siamo là, capito? È un bel mike perché ha una sua impronta diciamo particolare, anche se non sbaglio mi sembra che adesso a parte la propria tonalità di modulo di voce, ma mi sa che per dire per me l'85 mi sembra che l'avevamo già provato, l'85 diventa più stridulo, almeno riguardo diciamo il mio tono di voce, adesso non so se si ricorda Claudio. Sì. Avete parlato in due, vabbè, sento a te perché sei più alto di Gianluca, ma l'avete uno sotto l'altro. Sì, beh, lì bisogna avere quell'impronta che serve sì che l'85 abbia quella proprio cassa dura, nel senso che devi far funzionare bene il ruso con le quarizzatore, se non credo che ci vai, io l'uso con le quarizzatore, però in banda laterale, ma devi sentire che modulazione che ho con l'850 è favolosa. Tutti mi dicono se sto usando un Sennheiser, come cazzo si chiama, un microfono di quelli alta professionalità, io e qualcuno che mi piaceva sempre come Franco e Nicola, quello che volte parla, dico ma che sotto due maglie, ma che Claudio ha bisogno di equalizzatore, ce l'ha già equalizzata la voce, è veramente, veramente eccezionale. Per chi poi ha una modulazione un po' più con tonalità medio-bassa, l'80 è un buonissimo microfono, lo stesso io ce l'ho l'80, l'85 e il 60. Io preferisco sempre il 60 perché mi dà questa timbrica un po' da orco, ho capito che mi piace. Cosa dice per Gianluca? Niente, stavo appunto magari volendo un poco appunto di poter trovare o farmi fare questo spin-off per poter intercambiare nelle due radio che io ho quei due microfoni, a vedere un poco come escono, se si adattano diciamo anche alla mia timbrica della voce. Lì bisogna fare la prova, io l'80 ad esempio ce l'ho, bisognerebbe vedere se ho l'adattatore Kenwood Yaesu o Yaesu Kenwood, adesso non me lo ricordo, se ho l'adattatore Yaesu Kenwood non va bene, bisogna fare Kenwood Yaesu perché l'uscita è quella lì, comunque controllo, altrimenti si può fare anche la prova giallo, te lo faccio provare, non c'è problemi. Allora, se non sbaglio mi sembra che l'85, adesso non vorrei fare confusione, l'85 mi sembra che l'avevo ordinato anche perché c'avevo il cavetto sia per il keyboard, se non sbaglio anche il cavetto che lo utilizzavo, lo avevo provato, se non ricordo male, sul 757. Sì, te lo sto dicendo io, tu se guardi da qualche parte, se non hai invertito, cambiato, dato, no, perché poi facciamo sempre così, scambiamo le cose tra di noi, poi cazzo non ci ricordiamo cosa abbiamo combinato, l'altro giorno stavo cercando un microfono per dare tutto a Giampaolo per la RAN 48 e mi sono ricordato che l'ho dato a Marco Salvo per la radio La Barca, vedi? Cioè il colorante, sai che ce l'hai, poi vai a cercarlo, non lo trovi, poi talmente che ho così fatto, infatti aggiunto da regamenio che mi serve per dirti no. Dovrete avere l'otto sangue perché mi pare che la prova l'avevamo fatto noi due, era proprio MC85 con il 757, che ti ho detto assolutamente no, ti fa la voce troppo calda, troppo con tonalità medio-alta. E allora ero andato a fare quell'accorgimento sul 908, che se ben ti ricordi quando era qua il 757, il primo, quello che è ancora qua bruciato, 757 GX2 col 908, non c'era scritto che io riuscissi ad avere una modulazione bella come veramente quell'abbinamento, e non ci sono più riuscito ad averla. Sì, e se non sbaglio, se non vado a ricordare male, lo stesso cavetto che io abbinavo all'85, che era l'ingresso stesso posteriore a baionetta, lo utilizzavo sul 908, che andavo a combinare sul 757. Sì, quel cavetto lì ce l'ho da lavorare perché ce l'ho, non l'ho dato a nessuno. L'avevo imboscato da qualche parte e facevo questi abbinamenti, infatti mi ricordo che avevamo fatto delle varie prove, infatti con l'85 il 757 non c'era verso, invece con il 908 tramite l'equalizzatore diciamo e quant'altro riuscivo arrivo, diciamo, a combinare tutto. Quindi, vedi, c'è questa possibilità sia sul 908 che sull'85 per poter utilizzare sempre con questo cavetto, diciamo, a baionetta, chiamiamolo. Infatti, sì. Ma strano che non sono riuscito a fare quel cavolo di cosa. Insomma, Claudio mi sta dicendo che sono tre, figurati tu, si raddoppia ancora di più le possibilità, perché devi fare tutte le minimo immaginabili combinazioni. Sì, perché le MD200, Gesù, se guardi c'è quella ghiera sotto il piantone che praticamente il barone up funziona da lì, ok? Correggimi se sbaglio, a te serve un pezzo di cavetto a baionetta, giusto? Sì, allora io praticamente, però stare lì come stavo dicendo, a tagliare, a rovinare, a aprire, a spinotto del microfono, io non lo voglio toccare, non voglio toccare assolutamente, come ho fatto nell'MC60, non ho fatto niente. Non ho fatto nient'altro che prendere la femmina dello spinotto, la prima spinotta 8, che si ho levato il suo spinotto da dietro, quello praticamente a ghiera, ho levato quello lì, l'ho messo a parte, ne stavo costruendo uno che entrava a 8, la femmina, e dall'uscita a 4 per mettere su un baracchino di normale, lo vedrò poco. No, guarda, ce l'ho proprio in mano, quello che serve a te ce l'ho in mano, adesso guardo quanto, quello che serve a te è proprio a baionetta, con 8 fili che esce dall'innesto a baionetta, ce l'ho in mano, se ci mettiamo d'accordo 50 euro ce lo do. Sì, ma a 4 dall'altra parte, ho spinato a 4? No, allora... Questo jack che ho in mano io è un jack che tu vai a infilare nell'apposita sede, escono 8 fili, tu dagli 8 fili dovresti individuare la portante e poi la trasmissione. Quello che stavo cercando di fare qua, Sandro, con un cavetto che avevo già 4 senza fare la 8, capito? È modo da escludere anche i fili, quelli che fanno il down-out, che fanno muovere le frequenze, quelli non li stavo neanche calcolando, no? Stavo cercando esclusivamente solo la portante con la modulazione. Quindi è probabile che addirittura i cavi che vanno a far funzionare siano solamente 3, perché la radio, avendo già la ricezione, sicuramente, molto probabilmente, uno va escluso, così che te ne servirebbero sicuramente da individuare 2 di portante e 1 di modulazione. Sì, ma è questo quello che serve a te, capito? È questo qua che serve a te, capito? Perché questo è già pronto. A baionetto le fili escono già, gli 8 fili tutti colorati, io adesso non mi ricordo quali potrebbero essere, però una volta che tu infili lo spinotto, subito vai alla ricerca della portante tramite gli 8 fili e vai alla discussione, però non è come farlo, questo è già pronto, capito, a baionetta. Va bene, se capita te lo do, intanto adesso cercando, però me lo sono trovato in mano, dai. Giusto a provare a vedere se è compatibile, se esce bene, se non esce bene, se si adatta, se non si adatta. Ma, giusto per fare qualcosa? Vabbè, giusto per provare logicamente, no, perché per farli questi qua, cioè non è che li puoi fare come vuoi, capito, perché questi sono plantati e quindi fatti in modo tutto particolare. Va bene, ne approfitto, vi saluto e ce la risentiamo tutte le prossime, ne prende, grazie. Che qua stanno mettendo a letto, altrimenti devo stare con la porta chiusa e un carico a molinocchi. Dai Gianluca, fatti queste prove e vedi un pochino, comunque se quel cavetto ce l'ha Sandro, ti viene anche più facile intercettare i fili che sono scoperti e li vedi. Dai, ci sentiamo domani, anche per me qua il rettangolo, salutando tutti quelli che sono ascolto già a letto sicuramente. Buonanotte a tutti, Claudio Sfaviero, QRT. Capito Gianluca? Ci aggiorniamo domani, ciao. Alessandro, dai, buonanotte, grazie a te Claudio. Beh, ci sentiamo domani. Ciao, ciao, buonanotte.